Tonello l'ho sentito un attimino quando stava fischiando, ma come segnale più forte l'altro. Dipende, basta che cambia la frequenza, io poco a poco passo a lui, non ti preoccupare. Cos'è tanto ne? Ho detto, se voglio passo a portante, basta che mi sposto di frequenza di 5 del tiro, se nemmeno. Io dai, pazienza, dai, purtroppo. Io sono per chiudere tutto da un momento all'altro, dai, speriamo che si risolva la situazione, perché sinceramente non mi piacciono queste cose. Vabbè, pazienza, ognuno c'ha quello che vuole, cosa vuole che ti dica io. Io non passo, che passo le batte a mi sposto del giorno di frequenza e passo lo stesso. Mi è arrivato un altro messaggio, due messaggi mi sono arrivati da due persone, una a persona e un'altra ancora, e qualcosina ho capito. Ah, vabbè, ok, allora sei a posto, mica sono informato sui fatti. Vabbè, allora rimango normale, stacco tutto e sono a posto. No, no, io rimando in frequenza e giro qualche altro dopo, vedi che ne esce male lui. Mettere la portante, attacco la direttiva e non ce n'è più per nessuno, vado sotto casa sua e gli metto, attacco il lineare, gli faccio bruciare tutto. Io non ti faccio modulare. Che strano fare su 12, tutti questi 12 intorno non mi piacciono, prima c'erano tutti 10, erano più carini, mi sentivo più a mio agio. Spero? Ehi, a 10, dai, a 10 più bello, invece 12, boh, non lo so, 12 qua, 12 lì, 12 là, queste frequenze strane, boh. E allora 27.075? Le torniamo su 10, dai. Andiamo su 10? Dai, dai, forse erano delle prove e basta, dai. Muro, scorto che arrivo in segnale. Chiodo all'arginitto.